e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui di nuovo in diretta a Resto Radio Convento, la web radio del nostro locale Convento di Lonato. Ancora spazio a amici che ci vengono a trovare e che stanno popolando ovviamente il nostro locale. Loro non festeggiano nulla di speciale, di particolare, un bel ritrovo immagino tra amici, però possono vantarsi di avere al loro interno probabilmente il primo uomo in Italia e forse nel mondo vestito da studio radiofonico. Perché proprio questo costume da studio radiofonico, sì, parlavo proprio di te, che ti sei assolutamente messo in tema con le pareti del nostro studio e quindi volevo ringraziarti. No, beh, perché è vestito di rosso, molto bene, sì, mimetizza un po'. Allora, come ti chiami, studio? Io sono il senatore Guardalben, buonasera a tutti. Mamma mia, il senatore Guardalben, ma è un titolo politico o un titolo nobiliare? È un titolo acquisito per merito. Che meriti hai avuto? Il merito di aver amato questo paese più di tanti altri. Mamma mia, sembravi quasi Emanuele Filiberto in questa dichiarazione. Emanuele Filiberto era solo un grandissimo... Un grandissimo. Dilettante. Ah, pronipote, un grandissimo pronipote. Molto bene, molto bene. Coglione. No, è stata un'interferenza probabilmente da un altro pianeta. Allora, no, dicevo, non festeggiano nulla. Da dove venite però, ragazzi? Da Montagnana. Montagnana, che si trova dove? In provincia di Padova. Loro parlano insieme. Padova, se storia. Cioè, assolutamente sì. Quindi abbiamo l'uomo vestito da studio radiofonico e le due donne che parlano in contemporanea perché non riescono a parlare disgiunte. No. Siamo una cosa unica. Esatto, sono una cosa unica. Allora, facciamo come a scuola, facendo l'appello, mi perdonerete voi dal lato nord, partiamo per galanteria dalle donne qui e poi vi presentiamo, dai, uno per uno. Io sono Ilaria. Alessandra. Antonio. Thomas. Donatella. Riccardo. Io su Donatella c'è stata questa. Esatto, questa. Sonia. Ah, perché Sonia? Sì. Ah, scusate, si è cambiata il nome all'ultimo. Probabilmente ha espresso un desiderio inconscio, quello di chiamarsi con un altro nome. Ma essendo 80. Hai bisogno, non ti basta. Non mi basta. Non ti basta. Che tra l'altro è il titolo anche di una canzone, Un nome non mi basta. No, è una famosissima canzone. No, era. Un amore non mi basta. Emma Marrone? No, ho colto l'occasione. Vendo un amore e anche quello non mi basta. Perché Sonia non ti basta. Ama tutti. Sonia ama tutti? Bello, anche bello. Sonia ama anche tutti. No, anche no. Dipende. Sì o no? Da cosa dipende, Sonia? Dipende. Da cosa? Dici un po'. Dal calibro, vero? Ah, dal calibro. Beh, mi piace che Sonia sia una persona di sentimenti. Sì, certo. Si vede che è interessata all'affetto. Molto, molto. Non è materialista la Sonia. No, assaggiano il bastone e vengono subizzati. Non è materialista. Allora, ragazzi, grazie intanto per le presentazioni. Che tipo di rapporto c'è tra di voi? Amici, colleghi, morale. Cugini? Morale. Morale. Cioè, facciamo morale, parte, ma morale. Dai. Ah, morale. Cioè, vi sostenete a vicenda? Sì, siamo dei musicisti. Siete dei musicisti, attenzione, sì. Veramente? Sì, veramente. E tutti quasi tutti. Anche no, però. Anche, cioè, la Sonia è quella dell'anche no. Qualcosa sassi cosa dici entra con l'anche no. No, a parte gli scherzi, veramente musicisti? Sì. Ma un coro o una band? Coro. No, che ci può cantare? Sei fregata con le tue mani. Ma coro lì a Montagnana, sempre? Sì, sì, sì. Ma del tipo? Cioè gospel? No. No, no, no, qua non è. Chiesa, no, no, no, no. Noi il gospel. Vabbè, cioè, bisogna cercare di capire, no? Quindi, cioè, coro di che tipo? Cosa fate? Cantiamo per capirci, Claudio. Cioè, pop? Canzoni pop? Lui è maestro? Musica antica. Musica antica. Musica antica. Come vi chiamate? Cioè, non personalmente. Accademia Musica Nova. Accademia Musica Nova, perfetto. 10 secondi, vi va? Dai, ormai siete qui. Così. 10 secondi, improvvisati. No, beh, ma proprio un accenno, dai. Non si può. Dai. Come non si può? Dai, un accenno. Dai, poveretto. Manca una sezione. Vabbè, dai, com'è? Manca una sezione, ma... Dai, improvvisata, così come viene, vai. 10 secondi. Canta la formicola. Non lo so. Il grillo? Giustamente, stanno preparando la scaletta, velocissimamente. Ma non importa. Fatela sempre voi, dai. No, così è abbozzata, nulla di ufficiale, tranquilli. Dai, dai ragazzi. Ma mi dite, dai, avanti. Dai, qualcuno che dia il 4? Dai, forza. Vai, vai, vai, vai. Senza paura. No, manco uno che c'è che ne dai via. Ma non, ma non so niente. Dai, dai, dai 4, dai 4. Sì, fai tu. Dai 4. 2. Vai. Cosa sento? Me la formicola? Formicola, dai. Io non lo so. Vai, vai, vai. Cosa sai? Il grillo? Io non l'ho mai fatto. È andato da me? Allora io. Vabbè. Ma è 5 voci. Ma perché? Siamo in 2, in 3. Vabbè, dai, così come vi viene, era veramente un accenno, nulla di davvero. Non volevo farvi fare un concerto, ci mancherebbe. Dai, un accenno. Dai, forza. Dai, vai 4, conti 4 che tiri, tiri. E facciamo anche tattica. Boh. Dai, dai, dai, va benissimo, non ti preoccupare. Vai. Monte Verdi nel sottavo. Dai, dacci un cazzo di nota. Dai, via, via, via, via, via, via. Non vi sentite troppo in soggezione. Canta. Do diesis. Io do diesis. Pulisci le orecchie. Maiale. Volete un pianoforte? Ce l'ho qui. Contralto. Manca il primo. Finisce il tempo, ragazzi. Vai, vai, vai, vai, giusto. Bisogna accordarsi, ci mancherebbe. Forse. Cantate Domino Canticum Novum. Cantate, cantate, cantate. Benedicite Nomini Eius. Basta. Beh, ma bene, bene. Si è perso il soprano. Per va canti. Bene, bravi, bravi, bravi. Va bene, va bene, va bene. Allora, quindi, dove vi esibite? Cioè, feste di piazza, concerti, dove... Sì, qualche concerto in giro. Aperto, chiuso, indifferente. Ok. Quindi, immagino, adesso non sono molto del mestiere, però qualcosa ho sentito, che ognuno di voi abbia sicuramente una caratteristica canora, cioè un'inquadratura canora. Quindi, chi siete? Chi siete? Lei è un soprano, Sonia che ama tutti. Ok, che ama tutti. Lei pure, soprano, secondo, io contralto, più basso. Sì, sì. Lui è tenore. Loro due sono tenori, mancherebbe il basso. Ok. Cioè, non c'è allora, sono tutte domande di curiosità, perché ripeto, non ne conosco molto. Si nasce con questa estensione vocale o si può, tra virgolette, raggiungere un certo tipo di etichetta, chiamiamola così, perdonatemi tanto per... Sì, ma no, così tanto. Cioè, comunque si nasce. Comunque ci nasci. Quello, poi magari studiando. Sì, diciamo che all'interno di un coro, quindi in base al tuo range, ti piazzano a fare un ruolo rispetto ad un altro. La sto veramente banalizzando molto, tanto per far capire. E cioè, anche qui c'è una come dire, struttura base per un coro, cioè servono due contralti, un soprano, eccetera, eccetera, o è libero anche qui? Cioè, ci vuole sempre un po' di equilibrio, voglio dire. Sicuramente. Però non è che senza un elemento, un tipo di elemento, non si può fare. Si fa lo stesso, ma manca proprio armonicamente un pezzo. Un pezzo. Cioè, musicalmente, armonicamente, manca una voce, okay. Un pezzo proprio. Quindi avete tutti o praticamente tutti l'orecchio assoluto, immagino. No, è zero. Quello è una roba... Irraggiungibile, irraggiungibile. No, si nasce così. Ah, si nasce? Sì, beh, però... Tipo solfeggio armonico, immagino che siate armonico. Solfeggio musicale, siete ferratissimi. Facciamo, ma ci sono dei modi per farlo anche se non ha l'orecchio assoluta. Ah, bello, sì, beh, basta studiare, benissimo. Da quando sei cicciolino. Bravo, bravo. Mi piace perché lui non ha cantato, è stato l'unico a non cantare e riporta sempre la conversazione a terra. Esatto, a livello della... All'ignoranza. No, vabbè, a livello terreno, comprensibile a tutti, mi piace. Da quanto siete attivi come coro? Da quanto siete? Il coro c'è da una quindicina tre, d'anni. Più o meno. Tre, sì. Io da quasi due anni. Se non sono 14, sono 15. Una quindicina d'anni che c'è. E voi personalmente da quanto ne fate parte? Io da quasi un paio d'anni. Dalla nascita di questo coro. Tu sei la capostipite. No, non esageriamo. Quasi. Comunque... Tra le capostipiti. Sì. Ok. E vi conoscevate già o vi siete conosciuti grazie a questa occasione? Siamo conosciuti grazie a questa. Sì, Sonia, io la conoscevo di fama. Addirittura! Vabbè, d'altronde ama. D'altronde amando tutti, probabilmente ne hai sentito parlare. Ci mancherebbe. Sì. Ci mancherebbe. più o meno ci siamo conosciuti. Ci siamo conosciuti perché abbiamo suonato insieme. Ok, esatto. Beh, poi è come, come dire, è come le squadre di calcio, no? Quando fai una cosa che ti piace, ti vai a chiamare gli amici o comunque sia le persone che sai che potrebbero contribuire positivamente a quel progetto, quindi è normale che succeda così. Avete un sito, una pagina Facebook, qualcosa che volete comunicare per seguirvi? Si chiama come il coro, coro Accademia Musica Nova, con una C, Accademia. Un po' latinorum come, come derivazione. Bene, e la passione per questa, per questo genere è anche personale o solo legata all'attività corale? Cioè ascoltate anche proprio musica da camera, musica orchestrale o siete su altri generi? Avendo fatto il conservatorio, sì. Quello è un po' l'orientamento base. Poi la musica orchestrale è un'altra cosa, sì, rispetto a quello che cantiamo. Sì, beh, intendevo da orchestra, comunque elevata, ecco, elevata. Facendo l'amore. Eccolo lì, vedi, io ho bisogno di lui ogni tanto che dia quello spruzzo, esatto. Lui, sì, lui dà colore, lui prende il pennello, dà colore alla tavolozza. Bravo, bravo. Sì, dici, è il più artista di tutti. Bene, bene. È un po' come Aldo Cusi. Vabbè, insomma. Ok, una dichiarazione così. E va bene, volete salutare qualcuno? Volete dire qualcosa prima, sì, di salutarci? Mamma, ciao mamma. Giusto, giusto. Salutiamo anche la mia. Allora. Salutiamo anche la tua mamma se vuoi. Ma io saluto tutti gli italiani e ringrazio rappresentanti per la loro passione, veramente. È una cosa meravigliosa. Passione per tutto in generale. Bene, bene. Allora, Italian do it better. Bravo, io lo vedo già proiettato verso Montecitorio, tutte quelle zone lì proprio. Quirinale, mamma mia, punta in alto, bravo, bravo, punta sempre più in alto possibile. Allora, grazie mille ragazzi, in bocca al lupo per la vostra attività e ovviamente grazie passione. E alla prossima volta, grazie ancora. Ciao. Ciao.